applauso per Gesù! Di più! Più forte! Amen. Amen. Chiesa, ci possiamo accomodare. Grazie per l'onore, siete bellissimi. Vi ringrazio per questo applauso, mi incoraggia molto. Io sono Mario, sì, come ha detto Sara, sono insieme a mia moglie, sono il responsabile, siamo i responsabili dei giovani di questa chiesa. E volevo presentarmi così, dicendovi un po' quelle che sono le mie passioni. Io ho quattro passioni nella vita. La mia prima passione è Dio, non ve lo nascondo, lo devo dire. La mia prima passione è Dio ed è per quello che sono qui stasera. Se Dio non fosse la mia passione, non potrei fare niente di ciò che faccio. Neanche la metà delle cose la riuscirei a fare. La mia seconda passione è mia moglie. Nella, tu sei la mia seconda passione. Facciamo un applauso pure a mia moglie. Alza la mano, fatti vedere, amore. La vuoi alzare? Ora, la mia terza passione, invece, sono... E da dove siete? Fatevi sentire! Alzatevi in piedi, upside down, tutti su! Dove sono? Lì dietro, vabbè, lì sopra ce ne sono un'infinità. Upside down, siete bellissimi. E io vi amo. E li facciamo un applauso tutti quanti alle upside down. Questi ragazzi speciali, formidabili. Grazie ragazzi per essere qui davanti. Le ho chiesto io di sedersi qui davanti stasera, perché io quando li guardo sto bene. Io li amo. E volevo dirvi questo, che gli upside down in realtà sono, vi spiego meglio chi sono quei ragazzi dai 14 ai 28 anni, modugnesi o pugliesi o italiani o che abitano comunque nel mondo, diciamo, in questo pianeta. Per il momento ce ne sono circa una quarantina dentro, gli altri sono ancora fuori, non è che non sono upside down, pure quelli sono upside down. E noi stiamo lavorando per fare cosa? Per andare a parlare con queste persone, quindi... Ricordatevi di pregare per noi, perché per noi è molto importante avere il vostro supporto in preghiera. Chi vuole pregare per gli upside down? Che bella chiesa, che belli che siete, facciamocelo un altro applauso a noi questa volta. La mia quarta passione è il cibo, lo ammetto, però non mi farò pubblicità, dico solo che la mia quarta passione è il cibo, quello buono, e ne approfitto per salutare i miei clienti, i miei fornitori, grazie, vi saluto, se guardate questo video su YouTube o ovunque, io sono questo è il mio lavoro, quello che mi vedete fare fuori è il mio hobby, lo faccio perché è la mia passione, ma questo sono io e lo sapete perché ve lo dico sempre. Quindi, di cosa parleremo stasera? È un argomento che mi tocca da vicino, che non sto più nella pelle, cioè proprio ce l'ho... Sto troppo gasa, non riesco quasi a dormire la notte. Stasera parleremo di Gesù per tutti. E se lo merita un applauso, soprattutto questa scritta qua. Gesù è per tutti e questa è la verità, Chiesa. Gesù è per tutti. Gesù non è solo per noi. Gesù è per tutti. Stasera parleremo di questo. Perché? Perché è fondamentale. Non è importante, è fondamentale che noi, il 23, ci siamo. Se hai dagli 0 ai 100 anni e sei parte della Chiesa Pieno Vangelo perché sei seduto qua anche una domenica al mese, tu, il 23, hai solo un impegno, esserci. È importante, anzi, è fondamentale che noi ci siamo. E sapete perché? Mo lo capiamo, mo ve lo dico, non è che vi dico tutto all'inizio, sennò poi... Mancano ancora 26 minuti, non ho più niente da dirvi. Perché è importante? Per dirci perché è importante, voglio prendere come esempio un popolo, che è il popolo di Israele. Vi parlerò brevemente di questo popolo, di chi era questo popolo. Questo popolo nasce da Abramo. Quindi Dio chiama Abramo e gli dice, chiama Abramo, nel senso che Dio parla, come sto facendo io, Dio parla. Quindi chiama Abramo e dice, Abramo, e Abramo... Dimmi, e Dio gli dice, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, quindi da un uomo sarebbe nata una nazione. ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te, attenzione, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Amen. Questo è quello che Dio pensava e pensa del popolo di Israele, ok? Il popolo di Israele è nato per questi motivi qua, per benedire tutte le famiglie della terra, per diventare una grande nazione. Da questo popolo nasceranno dei re che influenzeranno l'umanità, persone, insomma, un popolo influente, potente, che doveva regnare. Cosa succede poi? Che col passare del tempo, degli anni, centinaia di anni, questo popolo fa una brutta fine. Da essere un popolo che doveva benedire, essere una grande nazione e quant'altro, diventa un popolo schiavo, servo, finisce nella schiavitù del popolo d'Egitto. Quindi inizia a servire il popolo d'Egitto, si mette in una posizione di schiavitù, cioè viene sottomesso da un altro popolo. Eppure questo popolo era nato per queste motivazioni, ma si ritrova nell'arco degli anni, dopo tanti anni, a servire per quasi 500 anni, 430, il popolo d'Egitto. Cosa succede? Poi un giorno arriva Mosè, questo ragazzo nasce, bambino nasce, bellissimo, la mamma lo abbandona per motivi che non vi sto a dire adesso, però è importante capire questo, che lo abbandona ma viene ritrovato dalla figlia del faraone. La figlia del faraone lo vede, bellissimo questo bambino, ok, lo adotto, prende questo bambino, lo adotta, ma il bambino sapeva quali erano le sue origini, gli viene detto, e così mantiene rapporti con i suoi fratelli all'esterno di questa famiglia che erano gli egiziani, mantiene i rapporti con gli ebrei. Così un giorno, quando era fuori, era andato a trovare questi suoi fratelli, vede una lite tra un egiziano ed un ebreo. E cosa succede? Che in un attimo di ira, di rabbia, uccide l'egiziano. Mosè uccide l'egiziano e per paura, per... non so neanche io perché, scappa via, va via dall'Egitto, va via dalla città, va via, va nel deserto. E nel deserto incontra due figure che saranno importantissime per la sua vita. Sua moglie, ma soprattutto Dio. Incontra Dio e lo vede in un pruno, un albero, che bruciava, ma non si consumava. E lì sente Dio che lo chiama e dice, Mosè, e Mosè, chi sei? Che è successo? E il Signore gli dice, Mosè, tu sei stato scelto per andare a liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E Mosè dice, io? Sì, tu. Ma io non posso, veramente, Dio, io non posso. Tu puoi farlo, io sarò con te. Mosè, con tutte le sue paure, con tutti i suoi limiti, con l'uomo che era, accetta questa sfida. Va dal faraone, faraone, devi liberare il popolo di Israele. Faraone, aglia. Faraone aveva origini baresi. Li fa proprio, voglio. E Mosè, no. E il faraone glielo nega la prima volta, la seconda volta, la terza volta, ma Mosè è insistente perché Dio è con lui e Dio fa prodigi ogni volta davanti al faraone. Trasforma un bastone in un serpente, ne fa tante, trasforma l'acqua del fiume in sangue, cavallette, di tutto succede in Egitto, fino a quando il faraone si convince, dice ok, portati il popolo, andate a celebrare il vostro Signore, uscite, fate quello che dovete fare e non ti preoccupare, vai. Mosè prende il suo popolo e lo porta fuori. Ora immaginate questo popolo che era stato 430 anni schiavo, cioè noi abbiamo una vita, 90 anni, 100 anni, 150, no, 100 anni, insomma abbiamo questo arco di vita. Voi immaginate che persone erano nate ed erano morte in schiavitù, ripetutamente. Questo popolo era abituato ad essere schiavo, voi immaginate che li frustavano, li trattavano male, e quelle stesse persone a un certo punto si sono tirate indietro e le hanno fatte passare. E questo popolo stava uscendo, e da qui iniziamo a leggere la Bibbia, perché questo è il momento in cui il Signore parlò così a Mosè. Dì ai figli di Israele, mentre stavano andando fuori, che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Achirot, tra Migdol e il mare di fronte a Baal-Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà dei figli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo di Israele, e quelli dissero: che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più. Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il suo popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone re d'Egitto ed egli inseguì i figli di Israele, attenzione, che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono. Tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Hachiroth, di fronte a Baal-Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura. Gridarono al Signore e dissero a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani e anche essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Questo è Esodo. Esodo 14 dall'1 al 18. È un bel pezzo di Bibbia, no? Ci fa capire questa situazione. Da questi versi noi possiamo estrapolare, tirare fuori un sacco di spunti che ci dicono: ok, questo è bello, mi ha colpito questo, bellissima questa frase, questa parola, ma io stasera vorrei focalizzarmi su un aspetto. Vorrei guardare quello che il popolo di Israele fa. Qual è l'atteggiamento del popolo di Israele? Questo popolo, come vi dicevo prima, martoriato, schiavizzato, trattato male. Voi immaginatelo, no? Provate a immaginare un ragazzo nato in quel momento, ebreo, figlio di Israele. Voi provate a immaginare che aspettativa aveva questo ragazzo. Voi provate a immaginare questo tipo nato, questo ragazzo, e dici: ok, io che cosa farò per tutta la vita? Tirerò mattoni, formerò mattoni, farò questo, farò quello. Cosa farò? Sarò schiavo per tutta la vita. Questa era l'aspettativa di un ragazzo nato in quel momento. Cosa succede? Che a un certo punto Mosè fa uscire questo popolo, una speranza arriva, un uomo arriva con Dio e dice: ok, noi dobbiamo andare via di qua. Il popolo inizia a vedere che c'è qualcosa, c'è una speranza, c'è qualcosa di diverso, e così prende coraggio e a testa alta, perché in quel momento si stava fidando di quella che era stata la parola che Dio aveva messo a Mosè. Stava uscendo davanti a queste persone, davanti agli egiziani, stava andando fuori a testa alta perché era convinto: sei, andiamo, vai, oh, corri, non rimanere indietro. A testa alta stavano uscendo, perché ci avevano creduto. Però poi arriva un momento, il momento in cui questo popolo si trova su questa spiaggia, no? Immaginatelo, sulla spiaggia, si trova il mare davanti, si guarda alle spalle e vede che quelli che li avevano picchiati, schiavizzati, sfruttati, stavano arrivando armati, arrabbiati, e li volevano prendere. Ora immaginate il popolo che cosa ha vissuto. Cioè, io fossi stato nel popolo, me la sarei fatta addosso. Onestamente, io me la sarei fatta addosso. E il popolo di Israele se l'è fatto addosso, cioè non ci giriamo troppo intorno. Il popolo di Israele ha avuto paura, e questa paura che ha vissuto questo popolo lo ha portato a un cambio di posizione. Dall'essere il popolo che usciva a testa alta, il popolo afferma: poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E lasciatemela questa frase, questa è la condizione mentale di questo popolo. Questo popolo, vi ricordo quello che ho detto all'inizio, è nato per benedire tutte le famiglie della terra. Questo popolo è nato per essere una grande nazione. Questo popolo è nato per influenzare il mondo. Questo era il popolo di Dio. Questo vi sembra il popolo di Dio? Così è no? Così è sì. Quindi, al mio tre rispondiamo. Questo vi sembra il popolo di Dio? Allora, l'85% dice no. Claudio, segnalo, perché io poi faccio le statistiche. Ok, questo non è il popolo di Dio. Questo non è il popolo di Dio. Perché? Perché gli egiziani avevano talmente pressato, talmente schiacciato, talmente oppresso questo popolo, che questo popolo in realtà aveva perso la sua identità. Questo popolo che era nato per essere il popolo di Dio aveva vissuto un percorso discendente che lo aveva portato ad essere da un popolo figlio un popolo servo, un popolo schiavo. Questa era la loro identità. In questo si stavano rispecchiando, in quel momento. Dall'altra parte, però, vediamo un'altra figura, che è quella di Mosè. Mosè, che cosa dice? Quello che Mosè afferma è: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Lui è un membro di quel popolo, ma vi sembra che la pensi come quel popolo? A me non sembra proprio. A me sembra che quest'uomo abbia capito realmente chi è lui e chi è Dio. A me mi sembra che quest'uomo abbia chiara la situazione. Ora, io vi ricordo che lui era in mezzo al popolo quando aveva il mare davanti e l'esercito alle spalle. Cioè, Mosè non era in un altro posto. Mosè stava in mezzo al popolo quando li stava guidando e a un certo punto ha detto: l'esercito, il mare. Cioè, Mosè stava là e in quella situazione afferma questo. Perché? Perché Mosè ha vissuto il percorso inverso. È nato in un popolo schiavo, è nato in un popolo che stava servendo gli egiziani, ha vissuto l'omicidio, ha vissuto tante cose brutte, la latitanza, ed è finito con l'essere figlio. Perché queste sono le parole di un figlio di Dio. E sapete cosa mi piace notare? Che il sì di un solo uomo, il sì che Mosè ha detto a Dio, ha permesso ad un intero popolo di vivere un miracolo. Il sì che Mosè ha detto a Dio vicino a quel pruno ha permesso a questo popolo di attraversare il mare e di liberarsi dopo quasi 500 anni di schiavitù. Questo è importante. Che ne pensate, vero? È assurdo. Cioè, io mi sono incantato di fronte a questa cosa. Un solo uomo dice sì ed un popolo vive la libertà. La verità è che Mosè l'aveva trovata la sua identità e il popolo invece l'aveva persa. La predica di stasera si chiama proprio così: servo o figlio? Servo o figlio? C'è un popolo che è servo e un popolo che è figlio. E stasera noi non andremo via di qua senza aver scelto da che parte stiamo. Ed è una sfida che Dio ci sta lanciando. E io prima di lanciarla l'ho dovuta vivere. E quando l'ho vissuta sono andati in crisi. Perché quando io mi sono trovato in quelle circostanze in cui avevo il mare davanti e l'esercito alle spalle, ovvero tradotto vuol dire in quelle circostanze dove non hai via d'uscita, che cosa ho fatto? Come mi sono comportato? Tu come ti sei comportato? quando ti sei trovato in quella circostanza dove non avevi via d'uscita, dove ti sei visto morto, perso, come ti sei comportato? Questo ti aiuterà a capire se stai vivendo da servo o da figlio. E io lo ammetto, tante volte ho vissuto da servo. Perché? Ora ci voglio spiegare bene che cosa credo possa identificarsi come servo e che cosa credo possa identificarsi come figlio. Il servo, secondo me, è quella persona che frequenta la Chiesa. In fondo è parte di un popolo che sa cosa è giusto e cosa non è giusto, che riconosce il peccato, soprattutto però quando sono gli altri a commetterlo. È anche impegnato a vedere tutto ciò che nella sua vita non va. Di solito quando lo incontri ha più o meno questa espressione. E quando gli chiedi come va, ti dice... È convinto delle sue capacità perché pensa che Dio è troppo impegnato con i problemi degli altri, di quelli più importanti. Si piange addosso a volte e anziché dimostrare attraverso la sua vita quanto è grande l'amore di Dio per noi e attrarre le persone alla vita cristiana, si focalizza a difendersi dagli attacchi esterni perché è perennemente sotto l'attacco di un nemico, perché ha sempre problemi. I problemi ci sono, tutti quanti li abbiamo, tutti, ognuno di noi ha un problema, però ricordiamoci che noi siamo figli e i figli hanno la soluzione. Dio ha aperto le acque, Dio le ha aperte, e come le ha aperte 3.000 anni fa, le apre ancora oggi. Il figlio invece è questo. Il figlio vive la Chiesa, la ama ed è impegnato a costruirla insieme ai suoi fratelli, dal lunedì alla domenica. Non viene in chiesa una volta a settimana, è impegnato, ma ancora di più è innamorato e si fida di suo padre, sa quello che Dio ha promesso e sa che quella è la verità. Sa bene che la fedeltà di suo padre ripagherà un giorno ogni momento speso per lui. Questa è la scelta che stasera dobbiamo prendere. Questa è la scelta a cui ci dobbiamo approcciare. E non è una scelta che fai oggi e dura per sempre, è una scelta che ogni giorno devi prendere. È una scelta che ogni giorno ti devi ricordare. Io sono figlio, io sono figlio, io sono figlio. Altrimenti fai la fine del popolo di Israele. Facciamo la fine del popolo di Israele. Il popolo di Israele era un popolo chiamato da Dio direttamente a influenzare tutte le famiglie della terra ed è finito sotto schiavitù. Mosè invece ha vissuto il percorso inverso e io so che noi possiamo vivere il percorso inverso. E non sono io a dirlo. Cioè questo che sto dicendo, se sei qua per la prima volta, non voglio che pensi che io me lo sto inventando o che è frutto di una mia riflessione. No, io ogni giorno apro la Bibbia e cerco qualcosa che Gesù vuole dirmi attraverso la Bibbia. E sapete cosa mi ha detto Gesù? Leggiti Galati 4. E io sono andato a trovare Galati 4. E sapete cosa mi ha fatto leggere Gesù in Galati 4? Questo. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori, fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tutti tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Cosa riceviamo noi? Cosa riceviamo noi? È perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Cosa grida il nostro spirito? Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Cosa ci ho capito io? cosa mi si è acceso in mente quando leggevo questo verso. Dio mi ha fatto capire che tutti quanti noi, e per noi intendo come prima tutti quelli che abitano sul pianeta Terra, tutti gli esseri umani che abitano sul pianeta Terra, tutti, anche quello che è il più brutto, è il più cattivo, è l'omicida, tutti, la persona più brutta è figlia di Dio. Tutti noi siamo figli di Dio e perciò siamo eredi di Dio. Ma, c'è un ma, noi siamo minorenni fino a un certo punto della nostra vita. Perché? Siamo minorenni perché abbiamo quell'eredità, che è l'eredità di Dio. Ma essendo minorenni non possiamo approfittarne. Sappiamo che è nostra, ma non la possiamo utilizzare. Sappiamo che ci appartiene, perché appartiene a Dio, e quello che appartiene a Dio appartiene a noi. Ma non possiamo metterci mano, perché siamo piccoli, siamo minorenni. E siamo paragonabili, me lo mandate di nuovo per favore, siamo paragonabili ai servi. Non differisce in nulla dal servo. E questa era la condizione del popolo di Israele. Aveva un'eredità che Dio gli stava dando, ma era rimasto servo. Perché? Perché poi c'è un ma. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. E Dio ha mandato suo figlio, Gesù, 2000 anni fa. È vero. Ma la pienezza del tempo è quando Dio ha mandato suo figlio nel tuo cuore. Quando Dio ha mandato suo figlio nel tuo cuore, cioè quel giorno in cui tu hai detto, sì Gesù, ho capito, tu sei il mio re, tu sei il mio amico, io voglio parlare con te, voglio cercare te, voglio starti più vicino. Quello è il giorno in cui Gesù è arrivato nel tuo cuore, è quello il giorno della pienezza del tempo, in cui nella tua vita c'è un cambiamento. Dall'essere minorenne, dall'essere erede, ma non possessore, dall'essere servo, diventi erede, maggiorenne, maturo, pronto a fare cosa? A ereditare l'eredità di tuo padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Ora, noi siamo eredi. Noi siamo eredi, il che vuol dire che l'eredità di Dio appartiene a noi. E io voglio chiedervi, cos'è l'eredità? Secondo voi, cos'è l'eredità? L'eredità è quella cosa che Dio ama di più di tutte, che è in cima al suo cuore, in cima ai suoi pensieri, nel suo cuore. Il suo cuore batte per quello. L'eredità di Dio sono le anime. Le anime della persona che è accanto a te, guardala la persona accanto a te, quella è eredità di Dio. Quindi stai attento a come parli di quella persona, perché è eredità di Dio. L'eredità di Dio, sai anche chi è? Quella persona che oggi non è seduta accanto a te, perché è seduta da qualche altra parte. L'eredità di Dio sono tutte le persone che non sono ancora qui, perché il suo cuore batte per le persone. E oggi noi maggiorenni siamo chiamati ad amare quell'eredità, perché ci appartiene. Quelle persone che saranno in piazza il 23 sono l'eredità di Dio. Il 23 è fondamentale che tu ci sei, perché ci sarà l'eredità di Dio là. E Dio vuole che noi ce ne prendiamo cura, perché noi siamo maggiorenni. E se non sei ancora maggiorenne, oggi puoi diventarlo. Non facciamo le feste, quelle grosse, quelle che vediamo la televisione, che vediamo i 18 anni, non le facciamo. Però siamo maggiorenni. Oggi sei figlio. E sapete qual è la cosa che tuo padre ti sta chiedendo di fare? A te, figlio. Matteo dice, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Ci stai credendo? Hai letto bene questo verso? Questo qua è il verso, secondo me, che ti devi attaccare all'angolino dello specchio quando ti lavi i denti la mattina. Io so che noi siamo una chiesa pulita e ci laviamo tutti quanti i denti la mattina, ed è per questo che ho scelto questo esempio. Quindi tornerai a casa e ti scriverai questo verso. Matteo 28 è proprio la fine del libro di Matteo. Se non sai bene il verso, aprilo. La fine del libro di Matteo 28:19-20. Attaccatelo. Fai di questo verso il tuo motto, perché tu sei maggiorenne. E stasera io vorrei che noi prendessimo questa decisione. Io lo sto dicendo dal palco, io lo sto dicendo in una predica, lo sto dicendo in un messaggio, ma se esce da questo microfono e non arriva al tuo cuore, al nostro cuore, al mio cuore, rimarrà solo un messaggio, rimarrà solo una mezz'ora di una domenica sera. Gesù per tutti non è per un anno. Andare è la chiamata che Dio dà a questo popolo. La chiamata che Dio sta dando a te, a ciascuno di noi. Andate e fate suoi discepoli. E se sei figlio, non puoi rimanere fermo davanti a questo. Non puoi. Adesso pregheremo. Pregheremo, però non voglio davvero che sia una preghiera fatta con l'entusiasmo del momento. Pregheremo e consapevolmente, con coscienza, davvero, se te la senti, il 23, di uscire in piazza sedile qua e di fare il leone, di vedere le persone, di avere fame, di andarle a prendere, a parlare, di portarle il giorno dopo in chiesa, di parlargli di Dio, di dargli il tuo esempio, di avere fame di quelle anime perdute. Se hai questo desiderio dentro, se vuoi chiedere a Dio di metterlo anche nel tuo cuore, se vuoi, non sei obbligato, se vuoi, io ti chiedo di alzarti in piedi, se vuoi. Solo se lo vuoi, non farti condizionare dalla musica, dalle luci, perché è una scelta importante, lo stai facendo davanti a Dio. Il 23 abbiamo la possibilità di conquistare e di strappare dei morti e di portarli alla vita. E se sei qua da un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, da tutta la vita, è per questi giorni qua. È bello venire la domenica, lo so, è bello vederci, però quanto è bello vedere persone che accettano Gesù per la prima volta. Quanto è bello quando li guardi negli occhi e loro piangono perché riconoscono che c'è qualcosa di diverso che tu gli stai dicendo. Dio ti sta chiamando, Dio sta chiamando il suo popolo. E ora pregheremo, leoni, pregheremo per questo. Pregheremo e io sono convinto che lo Spirito Santo scenderà ed entrerà in ciascuno di noi. E il 23 troverai una persona che sta aspettando proprio te. Tu che hai avuto il coraggio di alzarti. Non avere paura di parlare il 23. Non avere paura di parlare. Perché ci sarà quella persona che sta aspettando le tue parole. Chiudiamo i nostri occhi. Gloria a te, Signore. Signore Gesù, noi vogliamo venire davanti a te stasera. In questo momento, Gesù, vogliamo metterci ai tuoi piedi. Questo popolo che si riconosce figlio, che ti vuole, che ti desidera. che ha raggiunto la pienezza del tempo, Signore, perché riconosce che tuo figlio Gesù è venuto ed è morto per i nostri peccati, ha una richiesta da farti stasera. Ma ti vuole ringraziare prima, ti vuole ringraziare perché siamo a Modugno, ti vuole ringraziare perché qui ci sono 45.000 persone che ancora non ti conoscono, ti vuole ringraziare perché ci dai un senso alla nostra vita e ci dai la possibilità di avere uno scopo, e il nostro scopo sono quelle persone. Ti vuole ringraziare perché hai creato un'opportunità in questo evento, nel nostro paese, nella nostra piazza, in questo paese che appartiene a te. E Signore, noi ti vogliamo chiedere di equipaggiarci. Spirito Santo, io ti chiedo di scendere su di noi stasera, in questo momento scendi, entra in noi. Noi abbiamo bisogno del tuo brivido, della tua potenza, del tuo soffio, per avere quella potenza nel parlare, quel coraggio nell'affrontare, quel coraggio nell'imporre le mani, nel pregare per i malati, nel vedere guarigioni. Noi ci vogliamo credere, noi ci stiamo credendo, Gesù, perché noi vedremo miracoli quel giorno. Signore, noi proclamiamo e conquistiamo questo territorio, Signore, che appartiene a te. Non abbiamo paura, non abbiamo paura. Noi non siamo servi di nessun padrone, noi siamo il tuo popolo. Noi vogliamo conquistare, noi conquistiamo questo paese. Noi preghiamo, Signore, che la tua autorità possa scendere in questo momento, già in quella piazza, su quelle persone, e aprire i loro cuori. Con autorità ci imponiamo, Signore, la tua autorità, Signore. Guida le nostre parole, guida la nostra vita, guidaci, Signore, ad essere quei figli potenti, che il nostro sì possa guidare un popolo fuori dalla schiavitù, che il nostro dirti sì stasera possa guidarci fuori, Signore. Noi ti preghiamo per Modugno, Gesù, noi preghiamo per Modugno, Signore, liberalo. Noi vogliamo vederlo libero, Gesù. Noi diamo gloria a te, Signore. A te si innalza questa preghiera, Gesù. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Amen.